faccio già fatica e provo a pensare la mia vita senza te. Prendo la mia moto, non mi guardo indietro, con lo zaino in spalla sai. Un'altra storia se n'è andata e un'altra ricomincerà. Tutti questi giorni persi dietro un'onda di emozioni pure in me. Alzo il mio sguardo e dietro la finestra è vuota. Ricordo i primi giorni e quelli necessari per conoscere più te. Accendo la mia moto e poi mi metto in volo. E poi lontano, lontano da qui, via da qui. E poi lontano, lontano da qui, via da qui. Dimmi che ci sei, dimmi che sarai per sempre, sempre, sempre sarai qui. Dimmi che ci sei, dimmi che sarai per sempre, sempre, sempre sarai qui. Non grido più. Seduto, chiudo finalmente gli occhi.